nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 luglio, il sole in regione sorto alle 5.56 e tramonterà alle 20.37. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Anche l'agricoltura nostrana sta patendo gli esiti della crisi innescata dal conflitto russo-ucraino. Blocco dei cereali, dei fertilizzanti, l'inceppamento di un mercato consolidato nel tempo hanno avuto le loro ricadute anche sulle intenzioni di semina in regione. A seguire la storia del professor Angelo Floramo, che racconta di come tutta la società agricola di una volta fosse intrisa di momenti magici che avevano svariate prassi, come quella di dover cantare quando si andava alla pesca delle anguille. A seguire la rubrica delle normative, con l'avvio anche in Friuli Venezia Giulia dell'organo pagatore regionale in agricoltura. Commiato poi con il professor Raffaele Testolin, che per 2 anni ci ha curato la rubrica della frutticoltura, per passare a un argomento oltremodo interessante, quello dell'apicoltura urbana, ovvero allevare le api in città. Ultima puntata anche per la rubrica dei nostri amici alberi, con una serie di considerazioni sulla gestione delle piante colonnari, soprattutto in viali e giardini. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Uno dei report statistici di quest'anno dell'ERS è incentrato anche sulle conseguenze che la crisi russo-ucraina ha avuto sul mondo dell'agricoltura. Un mondo che un po' bene, un po' male funzionava e che adesso è completamente inceppato. Ne parliamo con Daniele Rossi, tecnico dell'ufficio statistica dell'ERS, che ha curato questo report. L'incremento del prezzo dei fertilizzanti che arrivano dalla Russia ha fatto cambiare addirittura certe intenzioni di semina qui da noi. Sì, e non solo questo, ma anche si sta rivalutando l'uso di fertilizzanti naturali in sostituzione a questi, proprio per i motivi di prezzo e di mancanza. Dall'Ucraina invece non ci arrivano non solo mais, non solo grano, ma soprattutto semi oleaginosi. È entrato un po' in crisi anche quel settore? Sì, beh, del resto lo possiamo vedere anche nei supermercati, dove siamo obbligati a comprare una quota massima di prodotto, di questi prodotti. E per quanto riguarda, invece, tornando al tema dei fertilizzanti, si parlava appunto di soluzioni alternative. Quali? Soluzioni, diciamo, naturali, quindi liquami, insomma, concimi naturali che usavano i nostri nonni. Si è tornati anche al sovescio per certi versi, quindi a un arricchimento azotato naturale. Sì, esatto. E per quanto riguarda invece l'import con gli altri paesi, dovuto appunto alla mancanza di prodotto russo e ucraino, come si è orientato il mercato? Adesso siamo ancora in attesa dei dati ufficiali dall'Istat, però l'intenzione era approvvigionarsi da produttori europei quali la Francia, ricordando che ad esempio l'Italia non può rifornirsi dagli Stati Uniti perché loro hanno prodotti OGM. Ma si parlava addirittura di una liberalizzazione, mi passi il termine che forse non è quello più corretto, dei prodotti OGM americani, sudamericani e nordamericani per l'Europa. Sì, sudamericani per quanto riguarda aflatossine, americani per quanto riguarda gli OGM, però ad oggi non ci sono novità, però l'intenzione c'era assolutamente, proprio per, era una delle misure, delle opzioni eventuali per contrastare le mancate importazioni. Quindi ha ragione chi dice che questa guerra ha fatto saltare la globalizzazione anche nel mondo agricolo? Fatto saltare non lo so, però è sicuramente un evento che fa molto riflettere su questo tema, perché la globalizzazione in generale, non solo nel mondo agricolo, la davamo per scontata e forse adesso bisogna ricominciare a ragionare anche in altri termini. Intenzione di semina, si diceva, da più parti arrivava l'invito a mettere mais, a mettere grano. Sono stati ascoltati questi inviti? Per adesso i dati AGEA sulle superfici non sono ancora ufficiali. Da quello che si percepiva era che, tenendo anche conto delle deroghe sulla possibilità di seminare nei terreni incolti, bisogna comunque considerare appunto l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti e dell'energia, e quindi piantare queste colture poteva comunque non essere redditizio e quindi potrebbero anche essere inferiori all'anno scorso. Il mondo contadino di una volta era tutto intriso da rituali magici, semplici ma radicati tra la gente. Sapevate che per aver fortuna nella pesca alle anguille bisognava cantare? Ce la racconta in questa storia Angelo Floramo. La vita nelle campagne non è immaginabile se non si tiene conto del suo rapporto ancestrale con i corsi d'acqua che le attraversano, quelle innumerevoli vene azzurre che innervano il Friuli e ne fanno, nei secoli, una civiltà fluviale. Il fiume irriga e disseta, e il suo letto è da sempre il tracciato più antico, seguito da popoli migranti, pastori, pellegrini e mercadanti, che hanno disseminato il loro passaggio di quelle sedimentazioni d'arte, pietà e bellezza che costituiscono il tessuto della nostra identità collettiva. Ma al tempo della fame, quando il mondo contadino non sempre riusciva a chiedere alla terra quanto bastava a durare la vita, tra scorrerie di eserciti, orde distruttrici, epidemie e carestie, i fiumi, le paludi, le grandi estensioni umide delle risorgive offrivano soprattutto una straordinaria riserva alimentare, capace, almeno in parte, di compensare quanto l'avarizia della terra spesso negava. Così, anche nell'immaginario popolare, la pesca di alcune specie ittiche particolarmente presenti in Friuli diventava oggetto di canto e di narrazione, dove le imprese epiche dei pescatori contadini che si avventuravano nell'impresa spesso si intridevano di quel mistero che sempre avvolge il mondo esterno alla comunità del villaggio, abitato da genti prodigiose, capaci di malia e alle volte anche di sventura. Non è difficile dunque comprendere quanto la pesca all'anguilla abbia profondamente influenzato una sensibilità che, per sua stessa natura, era aperta alle suggestioni del magico e del fantastico. Ancora oggi si compie nelle ore del crepuscolo, oppure di notte, il tempo delle apparizioni e delle visioni, meglio se le acque sono intorbidate, limacciose e fangose. Un tempo le imbarcazioni erano di legno e avevano il fondo piatto, spinte in avanti da lunghe pertiche che permettevano di avanzare anche sui bassi fondali e recuperare la preziosa predazione rimasta prigioniera dentro i bertovelli, le mazzacchere o i bilancioni. Alcune fonti dicono che si dovesse cantare per incantare il pesce. Quel bischiantà cantilenante che in lingua friulana porta in sé la radice di bisate, l'anguilla. Proprio come la bissabova, la dea maligna, boga, delle genti slave, il terribile temporale che si annuncia in cielo come un'anguilla mostruosa di aria, di terra e di acqua che all'improvviso si abbatte sui campi e tutto travolge, preparata in umido, con tutti i sapori dell'orto, accompagnata in guazzetto dalla polenta, ritrova l'umore perduto nel vino generoso. Dopo anni di stop and go, la regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di dotarsi di un proprio organismo pagatore in agricoltura. Vediamo che cosa significa assieme a Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Nella nostra trasmissione tante volte abbiamo nominato AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede a Roma, nata nel 1999 dalla soppressione dell'AIMA, l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, dalla quale ha ereditato le funzioni di collettore verso le imprese agricole italiane di tutti gli aiuti comunitari previsti dalla PAC, dai pagamenti diretti alle misure di mercato fino allo sviluppo rurale. In realtà AGEA oggi svolge due funzioni principali, una di coordinamento e raccordo verso la Commissione europea delle attività di tutti gli organismi pagatori regionali, gli OPR, e una di organismo pagatore sussidiario per tutte le regioni che non ne hanno uno proprio. E il Friuli Venezia Giulia è una di queste? Esatto, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano e la Calabria hanno tutte un loro organismo pagatore regionale. Tutte le altre fanno riferimento ad AGEA, Di fatto, per il nord Italia, le uniche prive di OPR sono la Val d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Ma se AGEA può svolgere tutte le funzioni, perché le regioni si dotano di organismi pagatori propri? In effetti, questo decentramento di funzioni amministrative può sembrare uno spreco di risorse, e per certi versi lo è. Il problema è che in tutti questi anni AGEA ha manifestato una serie di inefficienze, spesso legate alle procedure informatiche del SIAN, che sono fondamentali per il funzionamento del sistema. Dalla gestione del fascicolo aziendale alla presentazione delle domande di aiuto, alla gestione delle istruttorie e dei controlli amministrativi, fino all'esecuzione dei pagamenti. Tutto questo ha determinato forti disagi alle imprese e pesanti ritardi, e da qui la decisione di molte regioni, e ora anche del Friuli Venezia Giulia, di affrancarsi da AGEA. Quando sarà operativo l'OPR del Friuli Venezia Giulia? Formalmente l'OPR è stato istituito con la legge di stabilità 2022 e inserito all'interno di ERSA, che peraltro ha già avviato procedure concorsuali per acquisire personale dedicato. Il punto più delicato resta quello delle procedure informatiche, dopodiché bisognerà predisporre le convenzioni per le attività con i centri di assistenza agricola e la formazione degli operatori rispetto ai nuovi sistemi. Insomma, ci vorranno diversi mesi per avviare la macchina, verosimilmente non prima del 2024, quando la nuova PAC sarà già partita. Questa è l'ultima puntata del professor Raffaele Testolin, che ci ha raccontato i protagonisti della frutticoltura, ovvero le varie specie allevate in regione, e l'occasione per qualche considerazione finale. Amici di Vita nei Campi, è giunto il momento di salutarci. Io ho finito di raccontarvi come coltivare una serie di piante da frutto. Ve ne ho descritte oltre 40, smentendo me stesso quando, all'inizio del ciclo di trasmissioni sulla frutticoltura, dicevo che il Padre Eterno non era stato benevolo con noi, avendoci limitato la possibilità di coltivare poche specie dei climi temperato freddi, come il nostro, e negandoci il piacere di coltivare specie di climi caldi che rappresentano gran parte del mercato mondiale della frutta. Intendo ovviamente banane, ananas, mango, papaya, agrumi e tutta quella frutta coloratissima che riempie i banchi dei supermercati. Come ha avuto modo di sentire chi ci ha seguito nelle diverse puntate, le specie che possiamo coltivare non sono poi poche e vanno dalle mele, alle pere, alle pesche, per continuare con il ciliegio, l'albicocco, i susini, le fragole e molte altre specie interessanti e a volte poco note, la cui descrizione potete tornare a rileggere sul sito Facebook di Vita nei Campi a partire da quel lontano 13 settembre 2020, quando abbiamo iniziato l'avventura. Vi ho descritto sommariamente le specie, ma ho cercato soprattutto di rendervi la vita meno difficile con suggerimenti utili ad evitare delusioni, dato che la coltivazione delle piante da frutto non è proprio banale. Infine, per quanto riguarda la potatura, su cui mi sono soffermato spesso, al di là degli aspetti tecnici, vi ricordo solo che anche l'occhio vuole la sua parte e una pianta potata con grazia è una gioia per chi la guarda e un bel coronamento al paesaggio. So che alcuni di voi hanno preso coraggio e si sono appassionati al punto da trasformare il proprio giardino in un paradiso terrestre. A questi amici faccio i miei complimenti. La coltivazione delle piante da frutto è una delle gioie della vita semplice, e raccogliere frutti maturi dalle piante che abbiamo allevato e coccolato è una soddisfazione che ripaga abbondantemente l'impegno profuso. Buona domenica a tutti. Per l'ultima puntata della rubrica sul mondo, sul magico mondo delle api, Moreno Greatti oggi ci parla di una, possiamo definirla moda, ma forse non è così, l'apicoltura urbana. L'apicoltura urbana è la pratica di allevare le api in aree cittadine. Idea che ha preso piede in questi ultimi anni come risposta alla preoccupante diminuzione di questi insetti impollinatori e con lo scopo di tutelarli. L'apicoltura urbana viene attuata esclusivamente in città ed è ampiamente diffusa e diventata quasi una moda in metropoli come Berlino, Londra, Parigi, Tokyo, New York, dove tra l'altro si svolgono specifici concorsi per i mieli urbani. Anche in Italia sono numerose le città, sia grandi sia piccole, che in questi ultimi 20 anni, oltre ad avere degli apicoltori privati con i propri alveari, accolgono progetti di apicoltura urbana che coinvolgono scuole, case circondariali e associazioni di vario tipo. Attualmente si stima che in Italia siano circa 1500 gli alveari presenti nelle città. Tra di esse, quelle con più alveari sono Milano e Torino. A titolo di confronto, nella sola città di Londra sono oltre 4000 gli alveari ubicati in ambiente urbano. La biodiversità della flora dell'ambiente urbano, pensiamo ai parchi, ai viali, ai giardini, ai balconi fioriti, garantisce una fondamentale risorsa alimentare per le api per quasi l'intero anno e generalmente la quantità di miele che si può produrre in città è più che soddisfacente. Contrariamente a quanto si possa credere, il miele degli alveari cittadini non è inquinato, come numerosi studi lo hanno dimostrato. Infatti, in città non vengono effettuati trattamenti con pesticidi, la benzina non ha più piombo, il nettare viene prelevato dai fiori di frequente e prima che eventualmente possa inquinarsi e in inverno, quando sono maggiori i problemi legati alle particelle inquinanti, non ci sono fiori. Il luogo ideale per praticare l'apicoltura in città è un giardino ampio, un parco, la sponda di un fiume, un'area bonificata, anche se nelle grandi metropoli molto spesso le aree vengono collocate sui tetti dei palazzi. Se le operazioni negli alveari vengono effettuate correttamente, le api non risultano pericolose per le persone. Comunque, eventuali vicini vanno messi al corrente della presenza dell'alveare. In ogni caso è necessario attenersi alle specifiche leggi che disciplinano la salvaguardia sanitaria e la sicurezza dell'attività apistica, ricordando che l'apicoltore è il responsabile di eventuali danni provocati a terzi dalle proprie api e quindi, su di tutto, deve prevalere il buon senso senza mai pregiudicare la sicurezza dei cittadini. Fare apicoltura in città non è solo produrre miele per autoconsumo, ma è mettere in contatto mondi diversi, passando dall'educazione ambientale all'inclusione sociale e avere i propri percorsi di rigenerazione urbana, con giardini di piante mellifere per gli insetti utili, come dimostrato dai numerosi progetti in atto in diverse città italiane. Ultimo contributo oggi con Giorgio Valvason per la rubrica Amici Alberi, che ci parla delle piante fastidiate. Innanzitutto, cosa sono? Dunque, per fastidiato si intende un albero che sale a colonna. I rami sono piuttosto contenuti, occupano poco spazio, tant'è vero che noi vediamo tantissimi marciapiedi dove sono state tolte piante che avevano la chioma piuttosto espansa, così piantando queste piante a forma colonnare si è giustamente convinti di non fare interventi di potatura anche perché non occupano tanto spazio. Secondo me, sempre per quanto riguarda i filari sui marciapiedi oppure sugli spazi giusto lungo le strade, io diraderei un po', non li pianterei troppo fitti perché dà la sensazione della chiusura, perché noi quando ci troviamo in strada abbiamo bisogno di osservare anche l'ambiente che ci circonda e queste piante colonnari piantate fitte ci impediscono appunto anche la visualizzazione. Poi devo dire la verità, si tendono ad alzarsi moltissimo, anche loro hanno problemi di apparato radicale che non è molto ben ancorato perché non c'è lo spazio. Sarei dall'avviso poi di fare delle sostituzioni, non aspettare che la pianta maturi e diventi vecchia, perché si porta dietro tanti problemi di salute. In conclusione, possiamo dire una parola sulla scelta delle piante per i nostri parchi e giardini urbani? Sarebbe ora di cambiare certe mode? Ma io sarei dall'avviso innanzitutto di spaziare il più possibile gli alberi collocati nei parchi, nei giardini. E dopo io darei un consiglio anche, bisogna cercare adesso assolutamente di revisionare i nostri parchi e giardini, sia privati che pubblici, per evitare il collasso, perché sono state collocate troppo fitte le piante. Se non interveniamo abbastanza, diciamo, non dico in fretta, ma comunque intervenire per selezionare il numero delle piante. Quelle che sono ammalate, fortemente ammalate, inclinate, che creano dei problemi alle piante vicine. Dare lo spazio, dare la luce, perché la pianta ha bisogno di luce e noi sappiamo che la luce è energia, nutrimento. Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato attivo con prezzi in rialzo. Venerdì scorso nelle contrattazioni c'era ricco della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 35 e 30, 35 e 60 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 33 e 80, 34 e 30, l'orzo, peso specifico 62 e 65, tra 29 e 50 e 30 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 11 euro il quintale e il frumento di 13 e 50 centesimi. Discrete contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine. Però il caldo influisce sulle produzioni degli ortaggi, nonostante tutto i prezzi sono in leggero ribasso. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,60 e 1,70 euro il chilogrammo IVA esclusa, le zucchine tra 0,80 e 1 euro, i peperoni gialli e rossi italiani tra 1,50 e 1,80, i pomodori in grappolo tra 1,30 e 1,50, quello San Marzano per salsa da 0,70 a 0,80. Il radicchio rosso tondo è quello di Treviso tra 2,30 e 2,50, le pesche nettarine tra 1 e 2 euro, l'uva tra 2 e 2,60, le albicocche da 1,50 a 2,50, i meloni da 1,20 a 2 euro e le angurie da 0,40 a 1,10. Il settore della pesca attraversa un periodo di crisi per le condizioni meteo ed economiche, di conseguenza i prezzi sono lievitati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 26 a 35 euro al chilo, IVA esclusa, le orate da 12 a 30, le sogliole da 8 a 23, le ombrine da 12 a 29, le canoce da 4 a 15, i palombi da 5 a 12, i gamberi da 13 a 18, le capesante da 13 a 16, le seppie da 8 a 15, i calamari da 20 a 26, i soasi da 9 a 18 e manzancolle da 25 a 30 euro il chilo. Infine, scambi fiacchi con prezzi in calo nel settore degli avicunicoli. Il valore dei polli a terra varia da 1,50 a 1,52 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,51 a 3,55, i tacchini maschi da 2,20 a 2,22, le faraone da 3,85 a 3,95, i conigli oltre 1,5 kg da 1,55 a 1,61 e le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA, Arturo Puccillo, diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Il caldo intenso degli ultimi giorni, con punte prossime o localmente superiori ai 39 gradi in pianura giovedì, collocano quest'estate sulla scia del 2003, quanto a durata delle diverse fasi calde, e del 2006-2015, che tuttavia rimangono insuperati per quanto riguarda le temperature massime assolute. La prospettiva è per una leggera attenuazione del caldo, specialmente martedì, grazie al passaggio di un veloce fronte atlantico. Andando con ordine, domani sarà una giornata ancora stabile e molto calda, con temperature massime fino a 37 gradi in pianura, più basse sulla costa grazie alla brezza. Martedì ci aspetta una spiccata variabilità, con la possibilità che si sviluppino temporali sparsi non solo sui monti, ma anche su pianura e costa, localmente anche forti, con ingresso di bora moderata in pianura sostenuta sulla costa. Temperature in deciso calo, con massime appena sopra i 30 gradi. Mercoledì le correnti in quota saranno ancora occidentali e più fresche, ma il vento orientale al suolo e il prevalente soleggiamento contribuiranno a un lieve aumento delle temperature massime. Giovedì e venerdì si prospettano due giornate relativamente stabili, salvo variabilità pomeridiana sui monti, mentre il caldo si farà sentire di nuovo, con temperature massime che si riporteranno spesso sopra i 35 gradi in pianura. Nel fine settimana è possibile che un nuovo fronte atlantico scavalchi le Alpi, portando ancora qualche pioggia e un relativo calo delle temperature, ma la previsione è ancora incerta. Raccomandiamo quindi di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Se al Plufel di Sant'Anne, è tante mane, ovvero se piove il giorno di Sant'Anne, il 26 luglio, è tanta manna. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potrete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.